siete tutti convocati. Tutti convocati di Carlo Genta. Andaba a rapporto con lui perché il suo modo di pensare no era il mio, quindi è solo questo. Non posso dire più, solo che la scelta mia anche è stata perché lui mi ha spinto a farla, quindi io adesso sto felicissimo qua e, come ho detto, ringrazio alla nuova società che ho, l'esforzissimo che ha fatto per me. E adesso mia testa sta in giro. No, quando ho finito i 3 anni lì, per me aveva arrivato il momento di cambiare d'aria, ovviamente non in quel momento, sino per serie di motivi che hanno successo prima. Come ho detto prima, sono ringraziatissimo a tifosi e a mio compagno. A lui no, quindi non posso parlare di più. Adesso dico un'altra volta che sono felice di stare qua, di questa scelta e una nuova avventura, e spero sfruttarla al massimo. È stata una scelta mia stare tranquillo, in silenzio, sfruttare la mia vacanza con mia famiglia, con i miei amici, e non pensare in tutto questo. Ovviamente ho solo parola di bene per lui. Lui è stato un grandissimo allenatore per me, mi ha fatto crescere. Le mando un grande saluto da qua. Se si è arrabbiato per questo, chiedo scusa, però non è stato per niente in speciale, solo ho parola di ringraziamento su lui. Dunque, queste le parole di Gonzalo Higuaín da Neo Innamorato Bianconero, storie di tradimenti, di corna. Giorgio De Luca lo sa bene, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, e oggi ha risposto in questa dura battaglia verbale, ha risposto a Aurelio De Laurentiis, tra le altre cose con un lungo comunicato, tra le altre cose. Punto primo: se il signor Gonzalo Higuaín era così indispettito dalla mia presenza, ha impiegato molti anni per capirlo, a meno che non sia una persona falsa o un ottimo attore, ma escluderei quest'ultima possibilità, di attori me ne intendo. Poi, molte altre cose che vi leggerò, vado direttamente al punto 5. Cercare di spiegare che il suo passaggio alla nuova famiglia sia colpa mia e mancare di rispetto ai napoletani. Se Higuaín avesse letto la storia di Napoli, scoprirebbe che questa città è stata l'unica a liberarsi da sola dai nazisti, prima ancora dell'arrivo degli americani, che trovarono la città già liberata quando vi entrarono. Questo popolo lo si può tradire se non si ha vergogna, ma non prendere per il culo. Aurelio De Laurentiis, Raffaele Auriemma, voce, volto, anima del Napoli, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. Beh, dura battaglia a legnate, tra il presidente, che era stato il primo ad additare Higuaín come traditore rubentino, la replica dello stesso Higuaín si è ridotta ad una questione personale quasi. Sì, ma è così. Io non ci vedo nulla di serio in questa schermaglia, in questo battibecco tra De Laurentiis e Higuaín. Non mi piace neanche questa risposta di De Laurentiis, perché non è questo il modo per rispondere, ma soprattutto nessuno dei due dovrebbe parlare dei tifosi del Napoli, perché credo che i tifosi del Napoli debbano essere rispettati in maniera diversa rispetto a come ha fatto Higuaín e come fa De Laurentiis. Lui vorrebbe portarseli dal suo lato, ora che invece lui sono chi? In tanti. De Laurentiis? Sì, veramente questo comunicato che ha pubblicato il sito del Napoli vorrebbe portare i tifosi dalla sua parte, ma i tifosi sono veramente inferociti nei suoi confronti per tutta una serie di ragioni. Ma per carità, si vende Higuaín, i calciatori vanno venduti, però bisogna fare anche un mercato. Il mercato del Napoli ha sbagliato a farlo a gennaio e in questo abbrivio di sessione, perché non si può arrivare al giorno in cui Higuaín ti molla e non hai un sostituto, e poi questo è vero, il sostituto, è vero. Io alzo le mani e aspetto di vedere Milik cosa saprà fare, ma è un buon giocatore. Però sinceramente chiudo questo ragionamento, nessuno dei due deve permettersi di parlare dei tifosi del Napoli, perché questa storia è una storia di natura prettamente commerciale, sì, economica. De Laurentiis e Higuain hanno fatto un grandissimo affare, non so se lo hanno fatto anche i tifosi del Napoli. Sì, i tifosi del Napoli che dicono: ma come, veniva a cantare sotto di noi, era il nostro Masaniello, era il nostro condottiero, era il nostro totem, il nostro uomo guida, il nostro capo, tutto quello che vuoi, il vero erede di Maradona, eccetera. C'è chi dice, ad esempio mio amico Marino Bartoletti, che Higuain è arrivato come un mercenario e se n'è andato come un mercenario. Tu sei d'accordo? Ma no, non sono d'accordo, perché altrimenti dovremmo attribuire questa etichetta a tutti i calciatori. Che vuol dire mercenario? Il calciatore è un professionista, va dove lo pagano meglio, se ne va quando lo pagano da un'altra parte meglio. Se ne è andato malissimo da Napoli, perché questi sotterfugi non hanno tenuto nel dovuto rispetto la tifoseria che tanto lo ha amato, e lui lo sa. Però parlare di mercenari è un errore, perché i calciatori sono dei professionisti, e tanto più se si fornisce a Higuain l'alibi di impugnare la penna e firmare il contratto con la Juve, perché quando il Napoli non lottava per lo scudetto ma era primo in classifica, il Napoli società non ha fatto il mercato che Higuain, ma i tifosi, si aspettavano. Se a gennaio, invece di prendere, come annunciato, Herrera, Kramer e André Gomes, te ne vieni con Grassi e Rugani, allora i tifosi hanno tutto il diritto di pensare: tu lo scudetto non lo vuoi vincere, perché prendi due ragazzini che mai hanno giocato. E poi anche, ripeto, in questo abbrivio di sessione, ora si sta spendendo più di quanto si doveva, perché Milik non vale 30 milioni di euro oggi. Milik, secondo i portali specializzati, vale 15 milioni. Ci puoi mettere 5 di bonus, arrivi a 20, sì, ma non 30, perché ora sei con l'acqua alla gola e hai l'urgenza di comprare per completare la rosa, per non fare arrabbiare pure Sarri, che come vedete se ne sta buonino, ha fatto solo un'intervista al giornale vicino alla società, sì, ma non ha parlato in conferenza stampa, perché si teme che possa anche sbottare un pochino. Ma tu che mercato prevedi? Cioè, Milik è arrivato 25 più 5 di bonus, per Tolisso invece non c'è stato nulla da fare. È chiaro che tutti sanno che il Napoli ha le tasche piene di denaro. È stato nelle ultime ore offerto anche Balotelli, risposta molto tiepida. Che cosa ti aspetti? No, io non mi aspetto niente, voglio solo capire. Non ti aspetti cosa niente? No, ormai non mi aspetto niente, perché tutto ciò che arriverà sarà strapagato, e il tesoretto che il Napoli è riuscito a metter su con la cessione di Higuain andrà via polverizzato in due o tre acquisti, che chissà se saranno quelli giusti. Il mercato andava fatto prima, perché il Napoli ha una grandissima abilità nell'arrivare per primo sui calciatori, però volendo risparmiare troppo, tirando sul prezzo, le clausole e i 120... anzi le 120 pagine di contratto e i diritti d'immagine ti fanno perdere tempo. Hai perso tempo, sei rimasto solo con due acquisti: Tonelli, che non si è mai allenato finora, e Giaccherini, che è arrivato da tre giorni e ora si sta provando ad accorciare i tempi, ma adesso costerà tutto di più. Se poi offri 37 milioni per Tolisso e ti dice pure di no, mi chiedo perché non le hai spesi per Herrera, ma sono troppi. Raffaele, un ragazzo di 22 anni che è un buon talento ma ha tantissimi difetti, soprattutto in fase di copertura, lì dove invece il Napoli deve avere gente preparata, ma perché non hai preso Herrera quando per mesi hai fatto il tira e molla con il Porto per 30, 35, 28, 32. Se poi un calciatore ti serve, paghi 35, te lo porti a casa e sistemi un reparto che è tra i più carenti del Napoli. Invece ancora oggi stiamo a chiederci: ma chi sarà il centrocampista che prenderà il Napoli? La domanda al momento non c'è, certamente sarà un centrocampista che costerà molti soldi per le ragioni di cui sopra. Raffaele, sì, ti ringrazio, ora... ti sento molto critico nei confronti dell'operato di De Laurentiis e del club, ma giustamente, perché mi sembra un Napoli più è al momento un Napoli più debole. Mi fa piacere che tu aggiunga giustamente, perché non è che sono critico perché mi sono svegliato con una storta. No, perché no, le cose che si verificano non sono... No, ma cose... è un Napoli oggettivamente più debole così com'è rispetto a quello dell'anno passato. Anche se io mi fido molto del lavoro di Sarri, perché il gruppo è solido intorno all'allenatore. E se devi iniziare il campionato con l'11 titolare senza Higuain, con Gabbiadini o Milik che sia, lo puoi fare, però se pensi di poter lottare per lo scudetto oggi io sarei molto cauto vedo poca dirlo. Lotta, vedo poca lotta per il prossimo scudetto mio caro Don Raffaele, molto cauto anche nel pronunciare la parola lotta, che secondo me è eccessiva. Si parte la prima giornata tutti a zero, poi vediamo quando la Juventus scappa. Raffaele, ti ringrazio, ti abbraccio forte, grazie anche a te Carlo. Ciao Raffaele Auriemma, ci fermiamo per il traffico. 80024 0024 per la vostra voce. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque, dopo le botte a parole tra De Laurentiis e Higuain, ho voglia di prendere una boccata d'aria andando in campagna da Emiliano Mondonico, se mi ospite e mi riceve. Buongiorno, mister. Sono qui sdraiato sul divano, sì. Vicino, c'ho la nipotina che sta dormendo, se puoi non alzare la voce, sì, mi fai un favore perché quando si sveglia apriti cielo. Sì, però ti dirò che si è appena addormentata. Parlo piano, una carezzina da parte mia. Però io posso urlare perché la conosci la mia voce e perciò anche se urlo è tranquilla. Se invece urlate voi attraverso la radio... Non ti preoccupare. Siccome siete partiti con ADL e con Higuain, cioè non vorrei... saltasse fuori un mezzo casino. No, ma ditemi te lo chiedo sottovoce, cosa ne pensi di queste botte verbali che sono partite da De Laurentiis, colpa del Rubentino e del traditore. Ha risposto Higuain, no, colpa sua perché con lui non ci stava un minuto di più, e adesso De Laurentiis dice che il popolo napoletano non si può prendere per il culo. Vabbè, dai, bella ambiente. D'altronde spesso e volentieri si presuppone di conoscere tutto, poi dopo saltano fuori delle situazioni che dice, ma cavolo, io pensavo che lì si andassero tutti d'accordo, che ci sia, che ci fosse sinfonia tra uno, l'altro ancora, che soprattutto tra il presidente e il giocatore più importante, che sia quella amicizia, non quella dipendenza, sì, tra il padrone e l'operaio. Poi dopo vedi che per così, che per tanti motivi ci sono delle discrepanze. Non riesco a capire tra un po' che cosa salterà fuori, perché è chiaro che prima o dopo, al di là delle situazioni, qualcuno dovrà parlare chiaro. Però a quel punto tutto lascia il tempo che trova. Parliamo della Juve o parliamo del Napoli? Di tutte perché due. Secondo me il Napoli è competitivo come la Juve. Tu dici? Vi ricordate quando, due anni fa, tre anni fa, quando sì, Conte se ne andò dalla Juventus, certo, a ritiro iniziato, non si trovò d'accordo, in sintonia con la società, fece su le valigie e se ne andò. E tutti chiaramente si fasciarono la testa prima di essersela rotta, perché Conte era un po' il simbolo di questa Juventus vincente, sì, la sì. Juventus aveva vinto i campionati perché c'era Conte, perciò se Conte va via chissà che cosa succede, sarà una catastrofe. Il discorso è che Conte è andato via e sappiamo com'è andata a finire. Passiamo al Napoli. È chiaro che tutti quanti in questo momento siamo, non dico convinti, però siamo dubbiosi sul futuro di questa squadra senza il giocatore che ha fatto 36 gol, perciò senza l'interprete principale, cioè il punto d'incontro. Però è chiaro che penso che gli altri giocatori in questo momento abbiano la possibilità di dimostrare che se il Napoli ha fatto bene, che se il Napoli è stato lì lì a lottare per le prime posizioni, il merito è di tutti. Certo. E perciò certo. È chiaro che hanno una situazione incredibile in mano, come lo avevano i giocatori della Juventus. È chiaro che allora erano giocatori, si parla di Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, cioè giocatori con grande temperamento. Ecco quello che il Napoli deve avere. Deve avere questo grande temperamento per dimostrare a tutti quanti che era una squadra che chiaramente puntava in alto, certo, non certo. Un singolo giocatore. Però... E perciò questo potrebbe essere chiaramente una grandissima motivazione. Senti, Emiliano, ma se tu fossi, invece, buttandola sull'altro fronte, dimmi. Se tu fossi Allegri, Pogba se ne va per una montagna di denaro alla quale non si può dire di no, no? Se tu fossi Allegri, ti sentiresti nel burro? Se io fossi Allegri con gente che ho detto prima, come lo zoccolo duro dello Juventus, mi sentirei sempre in cima a una montagna. Perché quando in squadra hai questi tipi di giocatori, stai tranquillo che la squadra sempre e comunque renderà al meglio, al massimo. E l'importante è che Higuain si adegui a questa situazione. Mm-hmm. Cioè Higuain non può mandare a stendere, non so, Dybala come ha mandato, certo. come ha mandato Martens, non può mandare a stendere, cioè, non so, Listeiner come ha mandato Insigne. Cioè Higuain deve mettersi proprio in direttiva con questo zoccolo duro. Lui deve diventare uno dello zoccolo duro. Certo. E allora è chiaro che non solo sei in cima alla montagna, ma l'hai anche scalata, arrivando davanti agli altri. Se invece si detiene il giocatore per il quale tutti devono giocare e nel quale è rivolta tutta l'attenzione, è chiaro che non è semplice giocare no, nella Juventus. No, anche perché ti mettono a posto, poi ecco, quegli altri non ti è, mettono a non posto. È, non è semplice. Cioè, ma dov'è che vedremo la soluzione delle cose? Nei gol che farà il Napoli. Certo. Perché certo. Se giochi con Gabbiadini, è chiaro che importante saranno i gol di Martens, i gol di Hamsik, di Hamsin, i gol di Insigne, che dovranno raddoppiare. Certo. Perché è chiaro che non puoi pretendere da Gabbiadini, in questo caso, 36 gol. No, ma è chiaro. Ma è prevedi, chiaro. Ma devi avere dalla fase offensiva, dai quattro attaccanti, gli uguali gol che hanno fatto quest'anno. Certo. Perciò i 36 gol di Higuain vanno divisi vanno da Gabbiadini, che altri. Sicuramente deve dare in doppia cifra, e gli altri che devono raddoppiare i gol fatti lo scorso anno. Certo. Semplice. Da dire, da fare magari un po' meno. Invece ti faccio un'altra domanda. Se fossi Dimmi. Mancini, lasceresti l'Inter? Se fossi Mancini non lascerei l'Inter, perché lasciare una barca che non si sa ancora se sta a gallo o se affonda è sempre antipatico. Se fossi Mancini parlerei chiaro. Perché la gente... Cioè non è che la gente vuole sentire glorie, no, la gente vuole sentire la verità. Com'è? Quelli che sono andati da Berlusconi ieri sera, che cosa avranno sentito? Che cosa avrà detto Berlusconi a questi tre rappresentanti dei tifosi? Avrà detto che sono in difficoltà, mi auguro che arrivino questi. Cioè, hanno detto le cose come stanno? E perciò è chiaro che quando i tifosi sanno come stanno le cose, credimi, si avvicinano ancora di più, si sentono ancora più legati con la squadra. Se invece si viaggia su parentesi, su ipotesi, su speranze, sai che chi vive speranza, sì, lo so come cioè, morì non si può dire. E perciò questo deve essere. Non date certezze. certo che le certezze non sono... Raccontate la verità, ma non è merce rarissima in questo mondo, e tu lo sai forse meglio di tutti. Vabbè, altrimenti non ne parlerei, bravo, se fosse una cosa comune. Ti chiedo un'ultima cosa. Invece, dai un'occhiata alle altre, segnatamente a due squadre che vicino al cuore ti stanno, come Fiorentina e Torino. Come vedi crescere altre? Perché per quanto riguarda le top mi sembra tutto delineato, chiacchierato, poi qualcos'altro si muoverà. Però ad esempio Torino e Fiorentina o Bologna, le altre che inseguono, come le vedi? Cioè, ci sono delle squadre per le quali è difficilissimo, secondo me, cercare di intuire che campionato sarà. Per esempio Fiorentina e Torino, per arrivare in Champions, non devono sbagliare una partita, perché solo dando sempre il 100% riescono ad essere delle squadre competitive. Non hanno il finisseur, non hanno un uomo che lo porti in volata e questo batte tutti, ma hanno una squadra, e perciò abbiamo visto il Tour de France, devono fare come Sky con Froome, sì. Partire a 50 all'ora, arrivare a 50 all'ora. Se qualcuno è capace di andare a 60, bene, ci sarà chi arriva a 60, ma che di solito viaggia a 40. Chiaro. Queste due squadre devono non sbagliare una partita, non sbagliare l'approccio, togliersi dalla testa la Fiorentina il divertimento, ma mettersi nella testa la vittoria. Perché quando io sento ma andiamo in campo per divertirsi, ma tua sorella viene in campo per divertirsi, ma che tu devi andare in campo per vincere la partita. La Juventus sta insegnando tutti che cosa vuol dire vincere e prendere la vittoria come un fatto normale, come un fatto comune, come devono fare le squadre che giocano per vincere. E quando vinco non ho fatto un miracolo, ho fatto solo quello che erano le mie possibilità. Quello che ti chiedevano. Emiliano, io ti ringrazio tantissimo e dai una carezza alla tua nipotina che spero stia ancora dormendo. Sì, sta vedendo i Papa Troll, non so Papa Troll. Che si può dire, ecco, conosce tutti per nome e io conosco i giocatori. Lui dice Papa Troll e io dico Cristiano Ronaldo e voglio vedere chi la smette prima. Io preferisco Cristiano Ronaldo e Papa Troll, ma comunque è solo questione di gusti, forse di età. Grazie Emiliano. Vabbè, voi so, ma tu sai che ci sono dei Papa Troll che è incredibile quello che riescono a fare, prendono quella rete. Vorrei vederli giocare a pallone, secondo me sanno giocare anche a pallone. Sì, poi arriva arriva Mino Raiola e sistema le cose. Anche per i popolari. Ciao Emiliano. Ciao a tutti, buona giornata. Grazie Emiliano Mondonaco. Posso sentire Aniello da Salerno? Poi Matteo da Bologna dopo la borsa. Aniello, buongiorno. Salve cari, grazie per avermi convocato. A lei, dica. Volevo, a proposito delle dichiarazioni di Auriemma e della lucida interpretazione dello stato delle cose del mister, sono chiaramente assolutamente d'accordo parola per parola con quello che ha affermato testé il mister Mondonico. Cioè? E cioè che in pratica noi non dobbiamo dimenticare che sugli 11 undicesimi dell'anno scorso ne sono rimasti 10. Sì. E che come tutti abbiamo potuto vedere in tanti anni di Higuain è un signor centravanti senza nessun dubbio, ma è un centravanti da 25 gol in media. Quest'anno ne ha fatto 36 perché è stato inserito in un contesto tattico che sicuramente gli ha permesso di esprimere Mondonico dice che quei gol se li devono dividere gli altri. Non è facile. Dico, se l'anno scorso non è facile sicuramente, ma se lei ha visto bene le partite del Napoli di quest'anno, i nostri due esterni si sono praticamente sacrificati nel tenere aperte le linee avversarie per dargli la possibilità di uno contro uno. Certo. E quindi è chiaro che verrà modificato sicuramente l'aspetto tattico, così come pure le entrate di Hamsik non sono state le stesse degli altri anni, perché cercava comunque il fondo alla sinistra, cosa che invece non faceva prima, mentre e che gli comportava la possibilità di fare molti più gol. Lo stesso discorso potrà valere per un centrale del centrocampo, che sia Jorginho o chi per esso, che abbia una possibilità sulle seconde palle di entrare in maniera diversa rispetto al fatto che tu hai un terminale che questo è vero gol. Quindi grande lavoro per Sarri, però resta il fatto che il Napoli a oggi secondo me è una squadra ancora incompleta, perché un centrocampista manca, c'è stato il no di Tolisso, insomma qualcuno prima Aurier, ma citava Herrera, qualcun altro con quel tesoretto dovrà arrivare, se non altro per comunque per colmare una lacuna. Lasciamo stare Higuain, lasciamo stare questo, lasciamo lì questo discorso secondo cui tutti avranno più possibilità di inserirsi, di fare dei gol in modo da provare ad arrivare a quella montagna che Higuain è stato in grado da solo di costruire. Resta il fatto che il Napoli l'anno scorso aveva un difetto ed era quello dell'essere una squadra corta con poche rotazioni, e questo difetto non mi sembra possa dirsi colmato con l'arrivo di Tonelli e Giaccherini e Milik che è sbarcato ieri sera. Ci fermiamo per la borsa e torniamo subito. 800 24 00 24, il numero verde. Prima svolta della partita, ancora lunga però. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Si sono presentati in 250 davanti a casa di Berlusconi a fare un po' di casino e a contestare questa proprietà che è nel mezzo di un guado che non si capisce bene dove potrà portare, se in Cina come pare tra un po' oppure da un'altra parte. Intanto porta ad un mercato a costo zero. Amedeo da Parma, buongiorno. Buongiorno Carlo. Ascolta, ho sentito Auriemma, no? Mi sembrava di sentire uno che va al funerale. Sì. Non lo so che vogliono da questo presidente. Io da 5 anni, avevo 5 anni quando andavo a vedere il Napoli, no? All'epoca di Maradona, tutto. Poi dopo ci hanno buttato nella merda. Mm-hmm. E ci siamo stati nella merda per tanto tempo. Sì, questo, e poi è arrivato De Laurentiis e vi ha ripescati. Sono 7 da lì. Anni, 8 anni che andiamo noi sempre in Europa, no? Uh-huh. Io vorrei capire, io adesso vivo a Parma, no? Vorrei capire cosa vogliono da questo presidente. È vero che abbiamo i rifiuti dei giocatori che non vogliono venire o per una cosa o per un'altra, però io vorrei capire, è il presidente che non li vuole prendere perché non vuole spendere o perché sono loro che sanno che vengono a Napoli a fare la panchina? Perché non è che la squadra che abbiamo avuto quest'anno, togliendo i Wayne, sono rimasti altri 10, mettendo un altro centravanti o Milik, quello che sia. Sì. Penso che la squadra dovrebbe andare per forza. Lo so, però Amedeo, però uno dei problemi del Napoli dello scorso anno era proprio questa, insomma, 11 contati, solo quegli 11 poteva essere un punto di forza o anche un punto di debolezza. Non dimentichiamo che c'è una Champions League di mezzo quest'anno. Non dimentichiamo che a questa impostazione Napoli ha sacrificato, secondo me colpevolmente, il cammino in Europa League per inseguire il sogno dello scudetto. Insomma, sappiamo come oggi le squadre competitive, io continuo a considerare il Napoli una realtà del calcio europeo, debbano essere più profonde. Quindi non vale il discorso è solo un in meno, bisogna allungare le rotazioni di questa squadra, perché ci sono dei giocatori chiave che ovviamente non possono giocare 60 partite e devi sostituirli senza pagare dazio. Questo è il discorso, mi pare, no? Sì, Caglione ha fatto 38 partite perché non avevamo il sostituto, abbiamo preso Giaccherini. Giorgini è un giocatore difficile da sostituire. No, già è Giorgini, si arriverà qualcuno. Non penso che a 31 agosto, che finisce il calciomercato, al 1 settembre, non prenderà più nessuno con i soldi che ha preso. Prenderà qualcuno, penso. Questo, io vedo la squadra. Questo lo stiamo, siamo alla finestra. E perciò mi sembra che già adesso, non lo so. Sento che tutti quanti sconsolati perché è andato via, ma i quindi 30 secondi non è che li ha fatti da solo perché si è andato a prendere, no, il pallone, chiaro, da Reina, ma andava in porta, ma nessuno lo fa, non lo faceva nemmeno Maradona, se non in alcune occasioni, te lo assicuro Carlo, era solo Maradona che me lo faceva, ricordo, questo l'ho visto, io me lo ricordo bene perché andavo in trasferta, andavo dappertutto a vedere anche gli allenamenti di Maradona, sono andato a vedere, sì, perché Maradona, io ce l'ho sangue a Maradona, no? Perché no, però dobbiamo ammettere che Higuain tra i centravanti mondiali in questo momento è al top. Poi potete fare la classifica che volete, potete mettere chi volete sul podio, però sono quei 4-5 lì, non ce ne sono di più. E il problema che si diceva prima è, Auriemma ha ragione quando dice il Napoli non ha saputo prevedere ed anticipare questa partenza di Higuain operando sul mercato in modo da riuscire a sostituirlo in maniera che non fosse così frettolosa. Milik è un buon giocatore, è tutto da scoprire, ha fatto molti gol nell'Ajax, l'abbiamo visto bene all'Europeo. Gabbiadini l'anno scorso è stato sacrificato, quest'anno avrà più campo, ho i miei dubbi sul fatto che possa in maniera stabile giocare come prima punta, però insomma mi sembra che il Napoli al momento sia indebolito dal mercato, che non è ancora finito, i soldi in casa sono molti, eccetera eccetera eccetera. Matteo, buongiorno. Buongiorno Genta, buongiorno. Io volevo una sua opinione riguardo all'immobilismo del mercato del Milan, ma soprattutto io non capisco il senso strategico commerciale del veto dei cinesi o dei futuri compratori, ma in questo caso dovrebbero essere i cinesi, anche sui parametri zero. Galliani gira avanti e indietro per l'Europa, per il mondo, ha dei mezzi contratti anche con dei parametri zero e si sente bloccato anche lì. Ok, andare a comprare un giocatore, dici, vado a mettere dei soldi e poi dopo non li mettono i cinesi, ma sui parametri zero, se i cinesi o comunque qualsiasi altro compratore si ritira o salta al banco, si ritrova anche senza qualche giocatore che magari a parametro zero, pagando degli stipendi un po' più leggeri rispetto ai precedenti, potrebbe essere utile alla Rosa di Montella. Sì. Io volevo una sua opinione. Sì, adesso gliela faccio dare anche da Marco Nosotti da Sky, è molto addentro alle cose rossonere. I parametri zero, è vero che costano zero dal punto di vista del cartellino, per chiarirci, ma costano molto dal punto di vista dell'ingaggio. Il Milan mi sembra una casa in vendita, se tu stai vendendo una casa non ti metti a rifare i rubinetti, nemmeno quelli. Marco Nosotti, buongiorno. Buongiorno a te, concordo pienamente su questa immagine, è immediata ed è vero, il parametro zero poi è un problema, soprattutto se li prendi non giovanissimi, ti rimane sul groppone, perché lo paghi tanto, perciò gli fai un quadriennale e dopo 3 anni ti accorgi che non ti ha reso neanche per 2, e chi te lo compra con quell'ingaggio? Il problema dei parametri zero, se non li azzecchi è questo qua, tanto vale investire su uno più giovane, paghi un pochino di cartellino, ti dai un po' meno di ingaggio, ma poi lo hai formato. Sì, ma no, anche perché il ricordo degli Essien di turno mi sembra sia ancora abbastanza fresco al Milan, no? Sui parametri zero ne sono stati indovinati alcuni, altri meno. Lo stesso Mercedes ti costava, dopo 4 anni ti costava meno che un Romagnoli comprato, cioè, dico l'equivalente di un Romagnoli che non avevi potuto comprare prima perché dice costa tanto di cartellino, però ti costa poco di ingaggio. Bisogna essere fortunati. Sì, però Marco, rimane il fatto che rimane questa casa che è in vendita, c'è l'acquirente che sta tentennando sulla firma del rogito, del preliminare di acquisto. E mi sembra anche comprensibile, al di là di quelli che vanno a fare, dei tifosi che vanno legittimamente a manifestare le loro ragioni, è una seconda abitudine tutta italiana davanti a casa di Berlusconi, la situazione è questa, cioè se stai per vendere che poi la casa la ristrutturi chi compra, no? Esatto, è questo il fatto, e quelli che comprano, voglio capire fino a che punto, ecco, si può ristrutturare con quale architetto, con quale consulente di design, anche questo è importante, e al di là fuori di metafora, io voglio capire, da una parte c'è un uomo come Ganchikov che rappresentava, diciamo, la cordata cinese, dall'altra c'è un uomo come Adriano Galliani, esperto di mercato, che se gli dai soldi potrebbe anche fare qualcosa e lo farebbe per poi lasciare in mano tutto ai cinesi, e i due mi sembra che non si parlino da un po' ultimamente, sì. E anche questa è una situazione difficile. Poi si dice, ma questi cinesi, allora, vogliono 80, voglio il 100%, ma qualcuno comincia a dire qualche pezzettino della cordata è titubante, si tira indietro. E quindi ecco perché il mercato stagna, perché bisogna arrivare, tanto tutto deve passare attraverso una conferma l'uno dell'altro, delle azioni dell'uno dell'altro. E in questo momento qualche dubbio sulla volontà veramente di chiudere con i cinesi, il dubbio viene. Passa un giorno, passa un altro, salti come birilli diverse deadline che erano state fissate, certo non da noi, e più salti le deadline, più crescono i dubbi sull'effettiva volontà di chiudere questo affare. D'altra parte mi pare che qualche problemino anche di comunicazione esista anche dall'altra parte del naviglio, anche sul fronte Inter non mi sembra che con la nuova proprietà cinese sia proprio tutto limpido e cristallino. Sì, sì, sì, al di là del fatto che è un peperino il buon Roberto Mancini, però anche lì i problemi ci sono. E quello del Milan è un problema in cui in questi ultimi 6-7 giorni le cose stanno cambiando. E quello che sembrava avviato, ok, io faccio il mercato, ti chiedo conferma, tu dammi l'ok su alcune situazioni, e adesso non arriva. E contribuisce a creare, tornando al discorso di Milan, quella confusione che non aiuta a essere sereni nel programmare. E allora, ecco, la cosa più brutta sarebbe dire ai tifosi: guardate, il Milan è questo e questo rimarrà fino ai nastri di partenza del campionato, anche perché dovesse passare di mano, sappiamo bene quali siano i tempi tecnici e non ci sarebbe la possibilità di intervenire, di influire già in questo mercato. Quindi questo mi sembra palese. Gli unici soldini che puoi tirare fuori è Bacca, se decidi di accettare situazioni come West Ham, a cui ha detto di no, anche perché Bacca nel gioco di Montella non è l'ideale. Non è l'ideale, non gioca con la squadra, di giocare per lui e mettere in condizioni di essere quel gran finalizzatore che è. Poi devi condividere un progetto, e non mi sembra che Bacca lo voglia fare. Questa impressione anch'io, Marco. Senti, ti chiedo un istante di pazienza che ho il traffico e poi chiudiamo il discorso sul Sassuolo, che ieri hai visto, prima avrei detto ufficiale, perché c'è questo il preliminare di Europa League, 1-1 Lucerna, con un rigore parato e consigli che salva il risultato nel finale. Io sono curioso di capire come l'hai visto dopo il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque dimmi, Marco Nosotti, di questo Sassuolo. Questo Sassuolo, è stata buona la prima, come si suol dire, 25esima squadra che gioca in Europa, all'esordio, fa un pareggio, è buono, ottavo pareggio nella storia delle squadre italiane alla prima, e ti dico, ho visto comunque un Sassuolo solito, un Sassuolo che gioca, un Sassuolo che prova a giocare partendo da dietro, anche ho visto che indietro di preparazione rispetto a Lucerna, devo dire, ma questo conforta, perché questa squadra che per 3 anni si è sempre migliorata, 17esimo, 12esimo, 6° posto, gioca con i giovani, gioca con gli italiani, ieri solo 2 stranieri, sta facendo bene anche se indietro, e se tanto mi dà tanto, se buongiorno, ecco, buongiorno si vede al mattino, io credo che sarà un'altra grande stagione, ci auguriamo. Certo, ma poi la forza del Sassuolo, insomma, il Sassuolo ha fatto un grande mercato da intendersi come capacità ogni anno di resistere alla cessione dei pezzi migliori. E questo non vuol dire immobilismo, ma vuol dire una grande forza. Vuol dire anche saper gestire, saper vedere. Allora, Berardi ha un carattere particolare. Mi dice Di Francesco, non ho mai visto allenarsi con me così tanto, con quella ferocia nuova. Limando il carattere, non è pronto forse per la Juve, per il Sassuolo va bene, per il 4-3-3 perfetto, ieri, d'accordo, un pochino indietro di preparazione, ma ha fatto un gol, 2 azioni pericolose vengono ai suoi piedi, ogni volta poteva andare via bene, importante, loro lo hanno trattenuto perché hanno venduto Versalico e hanno messo a posto il loro bilancio, non certo. Fanno anche se sono, per dire la squadra dell'ex presidente della Confindustria o del grande industriale, non fanno il passo più lungo della gamba. Ora però dovrebbero comprare un paio di giocatori di esperienza, perché d'accordo bene i giovani da far crescere, d'accordo bene gli italiani, però un centrale difensivo e una punta a questo Sassuolo servirebbe. Sì, però per dire, erano vicinissimi a Immobile, ma non l'hanno presa. Ma lì si sta attenti anche a non minare certi equilibri. Io credo che un paio di giocatori comunque li arriveranno. Grazie Marco! Buon'estate, ti abbraccio. Buon'estate anche a te. Ciao Marco Nosotti. Buon'estate, certo, ma saremo sempre qui davanti a questo microfono. A proposito, ne approfitto per dirvi che domenica siamo qui dalle 17 alle 19, come tutta l'estate in diretta, quindi con tutti i convocati weekend. E dalla prossima settimana, caro Massimo, caro Roberto, caro Giovanni, ascoltatori convocati già in linea, doppio appuntamento con lo sport, perché tra 7 giorni cominciano le Olimpiadi, noi le cominciamo prima, quindi da lunedì nuova programmazione con tutti i convocati pomeridiano dalle 14 alle 15 e poi raddoppio serale, Olimpiadi e dintorni, annessi e connessi, tutte le chiacchiere di sport che volete, dalle 18 alle 20 ogni giorno. Capito Massimo? Sì Carlo, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio, dica. Grazie. Mi vorrei collegare all'ultimo intervento fatto dal, credo, dal tifoso di Parma e dal, dal mister Mondonico. Sì. Sono correlate le due cose, perché mister Mondonico diceva bisogna essere chiari e trasparenti verso il proprio popolo di tifosi. L'altro signore purtroppo ha una memoria, col dovuto rispetto lo dico, ha una memoria un po' corta. Mi spiego meglio. Mondonico diceva questione verità e trasparenza. Purtroppo oggi è andato in scena per l'ennesima volta lo show del mio, del presidente della mia squadra del cuore. Sì. Perché invece di abbassare i toni ha fomentato con un linguaggio che purtroppo non mi rappresenta. Sì. Ha per l'ennesima volta ha rappresentato ciò che lui mette in atto dal 2004. Nel momento in cui decide di vendere un campione per non fare definitivamente il salto di qualità, lui adotta la exit strategy, lo ha fatto con il Pocio Lavezzi. Io sì. ero in Austria quando a Lindabrunn, quando Donadoni era allenatore e iniziò la sua strategia, lo ha fatto con Cavani. Con Cavani, che poi influiscono in tutto questo anche i procuratori, ma sì, i procuratori con, lo fanno. Però Massimo, con i soldi di Cavani, quelle due cessioni erano in qualche modo programmate. Con la cessione di Cavani è stato ristrutturato il Napoli, è stato preso Higuain, è stato preso Calehon. Quindi anche la Juventus adesso vende Pogba per ha preso Higuain, vende Pogba. Quindi è una per certi soldi è una strategia che è comprensibile o dovrebbe esserlo. Mi pare Massimo, almeno dalle nostre parti, perché quando arrivano certe offerte, clausole rescissorio o non, il giocatore lo vendi e con quei soldi cerchi di migliorare la squadra. Non si può chiedere a De Laurentiis di rinunciare a parte il fatto che c'era appunto la clausola rescissorio, non si può chiedere a De Laurentiis o alla Juventus di rinunciare a quella montagna di denaro per trattenere magari controvoglia un giocatore che vuole andar via, perché non dimentichiamo che Pogba ad esempio andrà a guadagnare una cifra che la Juventus mai e poi mai avrebbe potuto garantirgli, una ventina di milioni l'anno tra ingaggio e diritti d'immagine su una quantità di denaro spropositata. Higuain, che a Napoli prendeva 5 milioni, va alla Juventus per 7,5, più la storia dei diritti d'immagine che viene lasciata di sua pertinenza. Insomma, bisogna considerare anche queste cose, perché ci sono equilibri all'interno di una squadra che possono essere minati dal ritocco di ingaggio. Sto pensando anche alla questione Icardi. Quindi è difficile, oggi non puoi chiedere a un club di rinunciare a questo tipo di offerte, perché non è nelle leggi del mercato. Roberto, buongiorno. Buongiorno, la ringrazio per avermi fatto intervenire. A lei. Io volevo soffermarmi, come l'ascoltatore di prima, sulla questione Higuain, sulla questione della clausola rescissoria. Io anche ieri ho telefonato, non sono riuscito a parlarvi. Sì. Però sì. Facevo un semplicissimo ragionamento. Io ho 45 anni, mi ricordo da bambino il momento in cui c'è stato quel boom, diciamo, di Diego Armando Maradona, che dal Barcellona è passato a Napoli. Cioè, voglio dire, è stato strappato al Barcellona. Chiaramente c'è stata la volontà del giocatore, però mi ricordo benissimo il cancan che si era creato. Voglio dire, oggi stiamo parlando di un giocatore che ti porta a casa 90 milioni di euro. Con i quali puoi costruire una qualsiasi squadra, secondo me i tifosi dovrebbero stare un po' più sereni. Sì, sì. La seconda cosa. Ma infatti è... De Laurentiis ha già incassato, ora toccherà alla Juventus incassare i gol di Higuain. Certamente è stato un grande affare per chi ha venduto e per chi ha comprato, per chi ha venduto dal punto di vista economico. Ma ripeto quanto ho detto prima, ci sono dei soldi ai quali non puoi dire di no. Ecco. Poi volevo soffermarmi un attimo, poi la lascio, sì. Sul fatto della fatica che sta facendo il Napoli a trovare giocatori di peso, di peso internazionale. Secondo me è anche un problema di poco appeal che ha il Napoli, forse anche, non so se è dovuto alla dirigenza o quant'altro, ma vedo un'estrema difficoltà andare a trattare giocatori di un certo livello, forse perché manca un po' di appeal, non lo so, cioè... Ma, io ho questa impressione, non so se mi sto sbagliando. Ma, in parte non, in parte ha ragione, in parte le trattative con il Napoli e con De Laurentiis sono, lo sappiamo, sempre particolarmente complicate per la storia dei diritti d'immagine. Il Napoli, è vero, ha incassato diversi rifiuti in questa prima parte del mercato. Non credo sia una questione d'appeal, anche se è vero che Napoli farà la Champions League, sì, però da Napoli è andato via il capo giocatore, cioè Higuain, e quindi l'immagine che il giocatore straniero di turno ha è quello di una squadra che fa sì la Champions League, ma dalla quale è andata via, è andato via la superstar. Quindi si tratta di aprire una nuova via. Non credo però che il Napoli manchi di appeal. Ripeto, le trattative con De Laurentiis sono sempre, per procuratori e per giocatori, particolarmente complesse, complicate, e quei contratti che sono delle enciclopedie non sono una leggenda metropolitana. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Io ho detto che chiamo da Rimini, però sono nelle colline riminesi. Ma che meraviglia! Sono un pochettino più fresco. Non si vedono cosce, ma perlomeno si sta bene. Alla mia età poi fa solo bene. Quanti anni ha? 70. E allora, come vuoi che siano? Era meglio averne di meno, ma comunque. No, ma va bene, allora, di bosco, di collina e anche di mare, di spiaggia, Giovanni. Che perbacco. Dica. Io volevo parlare della Juventus. Però volevo fare in secondissima battuta. Io sono contento al lunedì quando sento dire che la Roma ha vinto. Ma contento così, insomma, non sono tifoso. La Juventus l'anno scorso è partita male. Se parte male anche quest'anno, che cosa diranno, che cosa diremo? Solo ciacole, come dice quel signore là. Che poi avevo un altro piccolo che argomento. Cosa diremo non lo so, intanto vediamo se partirà male, io non ne sono così convinto. Comunque quello che diremo non lo so, ci verrà il momento, dica. Non saranno solo ciacole quelle che facciamo adesso, però adesso ho un altro piccolo argomento veloce. Le due milanesi, allora, io che sono stato 20 anni a Milano e le conosco abbastanza bene. Adesso io sono convinto che ci sia veramente, e questo è preoccupante, una mafia cinese, ma la mafia vera, quella che non fa giocare, quella che blocca i giocatori, quello che, cioè, vorrebbe veramente un'inchiesta seria per capire perché giocano così male. Io non me ne intendo, però credo che giochino male. No, io Giovanni, io non parlerei di mafia cinese assolutamente, perché stiamo parlando di alto livello della finanza internazionale, non stiamo parlando di qualcuno che va a comprare un bar. Stiamo parlando di grandi aziende, stiamo parlando di grandi imprenditori, stiamo parlando anche di una certa assenza di chiarezza, ma questa dovrà per forza venire su entrambi i fronti, che sono in condizioni molto diverse, ma ugualmente coinvolte in trattative con imprenditori che arrivano da lontano. Dunque ci fermiamo per il GR, ma torniamo subito dopo e vi aspetto. 800 24 00 24 è il numero verde. Solo chiacchiere, solo mare di ciacole, chiamiamole ciacole per essere educati. Tutti convocati. Dalla Brexit all'immigrazione, dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione, al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto dal 1 agosto, tutti i giorni, alle 16, qui, su Radio 24. Tutti convocati. Buongiorno Jacopo, 800 24 00 24, numero verde per tutti i convocati del mondo, dica. Buongiorno, innanzitutto la ringrazio per la convocazione e faccio i miei complimenti a lei e al programma. Grazie. Ma io volevo fare un intervento in favore di Galliani, perché ultimamente tutti criticano la società, e ovviamente io sono giovane tifoso del Milan sin da quando sono nato, grazie a mio padre, ma non capisco queste critiche nei confronti di Galliani, perché ovviamente la colpa di questo mercato non è sua, perché quando i soldi c'erano i giocatori li ha sempre portati, vedi Ibrahimovic, vedi Robinho, i vari anche passati come Van Basten e Gulli. Sì, senza andare così indietro, questo... Thiago Motta, Kakà, insomma c'è una lunga storia di grande mercato rossonero che ha avuto in Galliani protagonista. Non dimentichi però, Jacopo, che innanzitutto Galliani è storicamente inviso ad una alla frangia più oltranzista del tifo, e poi quando, essendo comunque braccio destro di Berlusconi, quando le cose cominciano ad andare male, viene coinvolto come tutta la società in una in un'onda di critiche, quindi, ma no, questo fa parte, sì. fa parte anche del fatto di essere rimasto lì per molto tempo, fa parte del fatto che il Milan ha avuto grandi difficoltà di mercato, non solo, non tanto per colpa di Galliani nelle ultime edizioni, gli viene rimproverato di non essere più così geniale nella scoperta dei talenti, dei giovani talenti, però sono tutte cose che si possono fare quando si ha il portafoglio pieno. Gli vengono rimproverate poi altre cose, insomma borderline, come rapporti molto stretti con alcuni procuratori, insomma tutte questa sono una esemplificazione della vasta gamma di critiche che vengono rivolte a Galliani, essendo uno dei responsabili di una società, uno dei capi di una società che sta andando male, Jacopo. Questo no, esattamente, questo sì. L'unica cosa appunto che mi dispiace, perché io sono convinto che con i soldi che ha la Juve, che per carità ha fatto una campagna acquisti fino adesso eccezionale, straordinaria, tanto che si dice che il campionato non deve neanche partire, però io sono convinto che con i soldi che ha una Juventus, per esempio, si potrebbe fare una grandissima squadra con un signore come Galliani. Io questo non ci metto, cioè non ho dubbi. Beh, ma Galliani è comunque considerato, ma basta parlare con Ancelotti, come uno dei grandi manager del calcio internazionale. Poi, ripeto, ci sono molte altre faccende, più o meno personali, perché questo stacco tra Galliani e, ripeto, le frange più oltranziste del tifo è una cosa lontana negli anni e che poco ha a che fare con questioni di mercato, ma con altra paccottiglia, con altra spazzatura, direi, di altra natura. Daniele, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, più che una domanda voglio fare una considerazione. Prego. Io sono juventino, quindi direi che sono contento di quello che sta facendo la Juve in questi anni, no? Però non essendo più di primo pelo, diciamo che si è andati oramai nell'immoralità. E quindi il calcio mi sta piacendo sempre meno, cioè, troppi soldi. Lei cosa ne pensa? Io non la penso così. Sono le leggi del mercato, sono, ripeto, lavoratori infungibili, sono soldi che vengono immessi, chiaro, sono tanti, possono dare fastidio, perché arriva alla fine del mese, possiamo fare un sacco di demagogia da questo punto di vista, che fa fatica arrivare alla fine del mese, sentire che Pogba andrà in Inghilterra a prendere 20 milioni a stagione, dice madonna mia, ma questo che cos'altro fa se non giocare a calcio? Ma qui si rischia davvero di cadere nella demagogia, perché gli attori, i cantanti, i pittori, non gli imbianchini naturalmente, ma i grandi artisti prendono, ma anche gli imbianchini in alcuni casi prendono una montagna di soldi, ma perché è il mercato a fare questi prezzi. Di conseguenza i grandi manager prendono una montagna di soldi, ma anche questo perché fa parte delle leggi di un mercato che parla di lavoratori infungibili. Non è la stessa cosa prendere me o lei o prendere Pogba al Manchester United, altrimenti non costerebbe così tanto. Allora, io ho in linea invece uno dei massimi esponenti del calciomercato che voglio introdurre con la vera bomba di questo mercato, altro che Pogba, la vera bomba di questo mercato, altro che Higuain, è Bobo Vieri che torna a giocare. Good morning everyone. Ore 8:30 più o meno. Telegiornale di Formentera. Grandissima notizia. Bobo is back. Ho deciso di andare a giocare in Cina. 5 mesi fa ero 101 kg. Ora sono 91, ho perso 10 kg. Devo perdere ancora 2 kg. Arrivo a 89 e sono in peso forma. Sono pronto. Have a nice day. Ci crediamo, Carlo Laudisa dalla Gazzetta dello Sport. Bobo is back. Anni 43. Ma il back dove? A Formentera? Sì, a Formentera. Al momento no. A Formentera dice vado a giocare in Cina. Oppure Corso Garibaldi Milano. Oppure Corso Garibaldi Milano, che sono campi e strade che conosce bene. Il tuo habitat, sì, naturale. Sì. Quindi non scherziamo, anni 43, si è ritirato nel 2007, se non ricordo male, quindi qualche annetto fa. Anche se, pensavo l'altro giorno, quando Massimo Moratti acquistò cash per 90 miliardi di lire, dopo Vieri, per inseguire il sogno di far giocare insieme Ronaldo, Vieri, Ronaldo. Fenomeno, e Vieri. Purtroppo il destino disse il contrario, perché poi per una serie di infortuni i due di fatto non hanno mai giocato insieme. Sì, quindi anche all'epoca quelle spese sembravano assurde, inverosimili. Ogni stagione del calcio ha le sue follie, no? Certo. Però è chiaro che io faccio una considerazione che ascoltavo prima e non posso che essere d'accordo con te. Lo star system, evidentemente il calcio attira sempre più denari, perché c'è sempre più gente che sta attaccata alla TV, anche in radio, ascolta, fa. Vuol dire che attrae investimenti onerosi. Certo. Non sottovaluterei mai, a proposito di Pogba, che il suo ingaggio da United è stato preceduto dal suo accordo con lo sponsor tecnico, che guarda caso è legato allo United, che gli ha garantito un contratto decennale da 125 milioni di euro. Quindi evidentemente non è avvenuto nulla per caso. No, quindi, chiaro, questo è chiaro. Quindi quei soldi di cui si parla adesso per l'ingaggio credo siano un tantino meno, perché lo stipendio è di 13 milioni netti. Poi ci sono vari bonus, può anche arrivare a 20. Io credo che lì sia stato tracciato un sentiero poco accidentato, che nella testa del giocatore è quella di Mino Raiola, è quella che porta il pallone d'oro. E se Pogba riuscirà a fare questa scalata, evidentemente guadagnerà quanto Messi e Ronaldo. Sì, certo Carlo, questo è tutto è tutto in divenire. È tutto in divenire. Ma senti, quando avremo l'ufficializzazione di Pogba United, che non è ancora arrivata? Ma credo che sia una questione di ore. Di ore. Penso domani, anche se il sabato. Ma attenzione alla serata, potrebbe anche essere che in serata a porta chiusa, perché anche questo elemento incide, e poi arrivi il famoso annuncio. Sì. No, ma poi quello che anche i tifosi devono capire è che, ne parlavo prima, parlavamo dell'ingaggio di Pogba, c'è un equilibrio all'interno di ogni club, che sia Napoli che sia la Juventus, un equilibrio tra gli stipendi dei vari giocatori, perché è chiaro che gli juventini non saranno contenti della cessione di Pogba, nonostante questa grandinata di sterline. Però è evidente che non puoi trattenere un giocatore cui viene proposto quell'ingaggio, né tantomeno se la Juventus puoi garantire quell'ingaggio, se no ti trovi la fila degli altri 20 davanti alla porta e devi ritoccare tutti i contratti verso l'alto. Sì, infatti l'anno scorso Pogba era il leader con 6 milioni, e adesso sarà Higuain con 7,5. Quindi diciamo che la Juve ha contenuto la crescita del monte stipendi, fisiologico peraltro per una squadra, per una rosa che ha vinto 5 scudetti di fila e ha fatto quello che ha fatto in Champions. Quindi se fosse rimasto Pogba avrebbe dovuto aumentare ulteriormente tutto il suo budget. Sì. Evidentemente la stessa storia non la raccontiamo a Napoli, dove ovviamente le emozioni prevalgono, il sentimento, la rabbia, tutto quello che ci vogliono, il tradimento. I fulmini e le saette di De Laurentiis. Sì, sì, sì. Io però cinicamente lo ripeto, se se un presidente sottoscrive un contratto in cui inserisce una clausola, uh-huh, è consapevole, no? Ah, ma dai, adesso è una battaglia verbale da ruffa popoli, insomma, cioè uno che dà la colpa all'altro, ma per questioni di, fammi dire, di ordine pubblico, della tifoseria. Carlo, invece, chiariscimi la questione Icardi, perché non mi è molto chiara. In questo momento quest'Inter che vive, che ha la sua mente, la sua testa, sono tutti lì in trasferta, lontani, arrivano notizie che a volte vengono smentite, contraddette nel giro di 12 ore, e il fuso evidentemente poi aiuta oppure no. L'Inter vuol tenere Icardi, però lui sta puntando i piedi, e anche in questo caso bisogna vedere se l'offerta di De Laurentiis sarà così, sarà una singa tale da imporgli uno strappo come oggi la Gazzetta paventa. Vedremo se rientrerà questo suo malumore, se la sua famiglia lo considererà nel bene o nel male. Alcuni spifferi dicono che alla fine Icardi in realtà non vuole proprio andare al Napoli, ma che comunque stia battendo cassa. Stia battendo cassa, questo l'ho già avvenuto nelle scorse settimane. È una vicenda tutta in divenire, e in questo momento l'Inter di proprietà Suning con la famiglia Zhang è scesa per la prima volta in prima fila, nel senso che abbiamo visto, ho registrato questi incontri che sono avvenuti appunto con Mancini e con Ausilio, danno la dimensione di come i nuovi proprietari si stiano muovendo per grandi investimenti, nonostante i paletti del fair play. Sì. Ecco perché non sono così convinto che effettivamente l'Inter poi si pieghi ai bisogni di Icardi e alle ambizioni del Napoli. Quindi, anche perché la vicenda di Icardi è un crinale, no? nelle gerarchie del prossimo campionato, perché se il Napoli non riesce ad arrivare a Icardi, difficilmente potrà essere più competitivo dell'Inter, no? Sì, chiaro. Almeno questo della sponda nerazzurra. E questo è un ago della bilancia certamente decisivo per questo mercato. Certo, che cosa ti aspetti rapidamente in settimana da non solo Milan, Inter, Napoli, ma anche da tutte le altre, ad esempio le romane, ad esempio la Fiorentina? Ti aspetti qualche cosa di nuovo? C'è questo passaggio importante a proposito di Napoli e Roma, il sorpasso del Napoli sulla Roma per Diavara, che è un altro segnale di come l'attivismo degli azzurri, che hanno dei soldi, al contrario di una Roma che invece è ancora impantanata nel conteggio del rosso, sì, che ancora c'è anche la vicenda di Paredes, anche lui suggestionato dalla Juventus, che ha detto no allo Schalke 04. Allora, il mercato di agosto ci dirà se le inseguitrici, ormai la Juve ha fatto quasi tutto, gli manca un centrocampista, saranno in grado di contenere, di attutire lo scatto che ha fatto la società bianconera. C'è molta attesa anche per capire sul Milan cosa accade. Certo. L'impressione però che i denari ancora non ci siano, quindi ai blocchi di partenza di agosto vedo un Napoli certamente motivatissimo, protagonista, un Inter in surplus ma con le ottime potenzialità, vedo un po' più attardata la Roma e clamorosamente in ritardo il Milan. Sì. Ecco perché parte con uno scenario in cui comunque le emozioni non mancheranno, perché devono tutti fare qualcosa per cercare di colmare. Questo per forza. Grazie Carlo, alla prossima. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro Carlo Laudisa, Gazzetta dello Sport. Ciao. Gianluca, buongiorno. Sì, buongiorno Carlo, sono Gianluca. E volevo dire una cosa, secondo me il Milan aspetta ancora ad acquistare, a fare sul mercato, perché se ci ricordiamo quando c'era stata l'ascesa di Barbara Berlusconi a prendere il posto di Galliani, Galliani ha detto: signori, io prendo la mia liquidazione e me ne vado, sono 50 milioni di euro. Sì, 50-60, adesso... non ricordo bene fosse l'ammontare di quella folle cifra. Esatto, e in pratica secondo me Silvio Berlusconi vuole fare in modo che questa liquidazione la paghino delle altre persone, perché sennò... Sì, ma questo c'entra poco con il mercato, però, Gianluca. Ah, cioè, perfetto, era una riflessione. No, cioè, c'entra poco con il mercato, perché Galliani è vero, fare il mercato con i soldi che gli mette a disposizione la società, cioè Berlusconi. Se la società mette a disposizione zero, a meno che non venga ceduto Bacca, può essere Galliani, può essere un altro, a fare il mercato mi sembra un po' difficile, a meno di non seguire la strada che abbiamo detto prima, cioè quella dei parametri zero. Non è una questione di liquidazione di Galliani, quella che blocca il mercato del Milan, è una questione di altro tipo. Il Milan è un asset che è sul mercato e vediamo se verrà ceduto in tempi brevi o utili. Angelo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Volevo farvi tre domande da un milione di dollari, ma una me l'avete già bruciata. Fantastico. Li abbiamo vinti o no? No, è rimasta un'incertezza perché riguardava il passaggio di Icardi. Mi sembra che la situazione sia ancora fluida. Io mi stavo semplicemente domandando se era solo un gioco delle parti, considerando che l'Inter sa che il Napoli ha 90 milioni in cassa e quindi sta lì un giorno ad aspettare i rilanci De Laurentiis. Ma detto questo, visto che mi avete già parlato, faccio le altre due. Sì. E cioè la prima, ma Icardi vale effettivamente 60 milioni, anzi 110, visto che gli stanno garantendo, gli garantirebbero 10 milioni per 5 anni a stagione? E la seconda domanda, è la pia illusione di un tifosissimo del Napoli che Icardi in realtà col gioco di Sarri potrebbe fare una paccata di reti, perlomeno una ventina? Io ieri, da buon malato, ho visto anche Lentella, diciamo. Sì. E il Napoli arriva con una vabbè, con tutto il rispetto per Lentella, arriva con una facilità pazzesca sulla tre quarti. Io penso che con un giocatore come Icardi veramente si rischia di fare un sacco di gol. Ecco, Angelo, è il profilo ideale. Le rispondo subito a questo, è il profilo ideale, ma credo sia anche il profilo ideale per Sarri. Cioè, è il giocatore che con le dovute proporzioni più somiglia ad Higuain, non certo all'ultimo Higuain, la distanza è siderale, però è un centravanti vero di quel tipo. Dunque non è un caso che il Napoli stia facendo di tutto per andarlo a prendere, per provare a scavalcare i no che mi sembrano piuttosto decisi dell'Inter. Poi vediamo come si mette la storia tra il club e il giocatore, perché questo, il club di appartenenza, cioè l'Inter, perché questo è sempre il punto su cui riflettere. Di conseguenza, non è un caso che il Napoli stia provando a cercare un giocatore di quel tipo lì, che non è Milik e che al momento non... che non è Gabbiadini, che ha fatto benissimo da prima punta l'anno scorso, ma con impiego limitato, potrebbe essere appunto Mauriti Cardi. Sul fatto che vale 60 milioni, non lo so, lo dice il mercato. A quello che il mercato dice ci atteniamo, senza dare troppe valutazioni di valore o di morale, perché non mi sembra il caso. Tra 7 giorni esatti ci sarà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, per molti aspetti temute, di Rio de Janeiro. Vi ricordo che seguiremo molto da vicino i giochi olimpici, con ospiti inviati, con voi ascoltatori. Programmazione dalla settimana prossima e fino alla fine delle Olimpiadi, fermo restando l'appuntamento della domenica, compresa questa, dalle 17 alle 19. Ogni giorno, tutti convocati per tutti gli argomenti sportivi dalle 14 alle 15 e poi dalle 18 alle 20 ogni giorno da lunedì a venerdì, per approfondire e chiacchierare e divertirci insieme sugli argomenti olimpici. Giorgio Rondelli, buongiorno. Buongiorno Carlo. Ciao. Senti, Olimpiade molto temuta questa per diverse ragioni, forse come mai era accaduto in passato, tra scandali al doping, problemi logistici, una Rio de Janeiro che non sembra ancora pronta per ospitare i giochi a 7 giorni dalla cerimonia inaugurale. Condividi, da uomo di sport che da allenatore ha fatto le Olimpiadi, ricordiamo Kova, Vanette, tutti i grandi talenti che hai allenato nella tua carriera, condividi questa perplessità o no? Beh, sai, non posso non condividerla, però insomma è sempre comunque una prima volta in Sud America, che è un continente molto particolare, dove sicuramente ci sono delle problematiche anche logistiche da risolvere, e poi mi auguro che poi con l'inizio dei giochi tutto venga messo in secondo piano, anche se certamente l'avvicinamento all'inizio di questa Olimpiade è stato quanto mai sofferto, soprattutto per le problematiche anche legate a situazioni doping, che veramente stanno un po' buttando per aria sì. un po' tutto quanto, però ripetimi non qual si è... arriverà mai all'opzione zero, però sì. Almeno penso che da quel punto di vista dovrebbero essere giochi più credibili. Senti Giorgio, ripetimi qual è la tua posizione sull'affare Russia, cioè tu sei dalla parte degli integralisti che dicono sarebbe stato meglio una punizione esemplare, dunque tenere fuori l'intera Russia, l'intera spedizione russa da queste Olimpiadi, o la soluzione compromissoria del CIO, cioè quella di dare voce alle singole federazioni e quindi di garantire la presenza da parte delle singole federazioni di atleti che non hanno problemi di doping né ne hanno avuti, è quella più corretta? Ma io sono per la situazione compromissoria, perché poi da uomo di sport, ma anche dentro molto le varie situazioni, ma dico chi sono poi le federazioni pulite. Ricordiamoci che nel 2012 la grandissima Giamaica di Usain Bolt, la presidente della sezione antidoping, si era dimessa perché aveva fatto un solo controllo a sorpresa con tutti i campioni che avevano. Tanti sono stati presi, anche i grandi campioni dell'Africa, del Kenya, adesso ne stanno trovando molti che hanno avuto problematiche, sono stati anche indagati manager e allenatori italiani, insomma. Quindi io sarei per cercare di essere più garantista. Certo, quello che è successo alla Russia è stato un discorso stratificato a livello statale, a livello certo. di federazioni. Gli altri magari, Carlo, a macchia di leopardo, ma voglio dire che chi è senza doping alzi scagli la prima pietra, e mi sa che di mani se ne alzerebbero se ne alzano pochine. Olimpiade ti aspetti invece nel tuo sport, cioè l'atletica? Ti aspetti un'Olimpiade di alto livello o qualcosa di transitorio, visto che ci sono comunque grandi campioni che sono all'ultima danza, all'ultimo canto, e ma altri nuovi ne aspettiamo? Mi aspetto un'Olimpiade a bifronte, una che dove ci sono i grandi campioni, non so se attese la loro ultima recita. Parlo di Usain Bolt, che quest'anno, che fra poco compirà i 30 anni, magari farà nel mezzofondo, di tanti altri campioni. Mi dispiace, credo comunque alla sua pulizia in assoluto, che non ci sia la Isinbayeva. Quello mi dispiace per lei, perché è un atleta che ha avuto una carriera lunga, ha avuto una maternità, che credo meritasse di rientrare. Però ci vado sempre con la grande curiosità di scoprire i nuovi fenomeni dell'atletica, perché ormai in tutte le nazioni, Giancarlo, producono, già ve l'ho detto la settimana scorsa, commentavamo i mondiali junior, e l'ultima cosa che mi aspetto è di vedere un indiano che tira un giavellotto 86 metri. Sarà l'occasione per tanti talenti per rivelarsi e magari puntare al prossimo quadriennio. Mi auguro che sia una grande recita. Hai di qualche, alto livello, Giorgio, campioni. Hai qualche nome da suggerire al grande pubblico? Mettete delle bandierine quando ci sono le gare di questi qui. Hai qualche nome nuovo che è in grado di spaccare il mondo alle Olimpiadi? Ma di spaccare il mondo, sai, poi spaccare il mondo, diciamo, lì abbiamo visto gli anni scorsi questa Genzebe di Baba, che poi è stata ridimensionata da un'altra che si chiama Iana nel mezzofondo. Nella velocità è un momento molto particolare fra i nuovi americani, anche se poi lo scontro chiave sarà sempre Usain Bolt contro Justin Gatlin. Quindi un nome che si stacchi non c'è. L'occasione olimpica dovrebbe essere il momento chiave. Mi ero dimenticato poi nell'asta l'uomo che ha addirittura superato col suo salto rock da Villeneuve un mostro sacro come Bubka, anche se poi ha perso gli europei recentemente ad Amsterdam, perché in una giornata con vento variabile ha voluto entrare troppo alto. Quindi sai, l'atletica, poi sei l'uomo da solo così contro altri, non fa sconti. Comunque mi aspetto una gran bella Olimpiade in un ambiente molto diverso, e alla fine credo che lo spettacolo non mancherà come sempre. Speriamo, saremo qui a raccontarlo. Ciao Giorgio, ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao Giorgio Rondelli. con cui chiudiamo questa puntata, chiudiamo questa settimana, ma la riapriamo, insomma, a stretto giro di posta, no? Domenica dalle 17 alle 19, perché siamo con voi in diretta per ogni giorno, per tutta l'estate. E lo ricordiamo ancora, Giorgio De Luca, nostro autore, che sta per andare in vacanza, quindi non seguirà con noi le Olimpiadi, ciao ciao. Gianmarco Ferronato in regia. Da lunedì, doppio appuntamento, tutti convocati 14:15, dalle 14 alle 15 in diretta ogni giorno, e tutti convocati alle Olimpiadi ogni tardo pomeriggio dalle 18 alle 20, sempre con voi, numero di telefono che vale per entrambi gli appuntamenti. Ci fermiamo qui, buon sabato, buon weekend, ciao a tutti. Ciao a tutti.